passo lento, a tratti insicuro. Raffronto questa strana età. Sento che mi sfugge il futuro. Disattento, disattento, lo trovo sempre un po' più in là. Difendo mia faccia oscura, figliastro dell'umanità. A volte la mia anima è stanca, domanda sapere dove andrà. Il fuoco dentro non mi manca, la scintilla, mi chiedo chi l'accenderà. Ogni piccola paura, dal mito della libertà. La curiosità.